Questi parlano di noi, li lasciamo parlare. Non c'è più né bene né male quando mi dà dipendenza. Da dipendenza. Ho già perso abbastanza, facciamo che mi lasci la lingua. Lascio che il tuo pugno stringa, il mio sangue nella tua siringa. So che mi sto intossicando, ma non c'è cura che vinca. Ho puntato così alto che ho quasi paura che il mutuo col mondo si estingua. Sto sui miei passi, da solo in un branco di pazzi. Con il rap ed un sacco di scazzi, penso a te poi collasso nel taxi. Di notte in preda agli spasmi, a guardare gli astri, saltare i pasti, mettere insieme i frantumi rimasti, schiacciare i fantasmi. Via, via. La vita è un libro, io sto con te per un altro capitolo. Per quanto possa restare in pericolo, se il mio veleno ed insieme è l'antidoto. Impara per gli altri che ridono, non sento nemmeno che dicono. Oggi che sono finito, mi stringi la mano al patibolo. Questi parlano di noi, li lasciamo parlare. Non c'è più né bene né male quando mi dà dipendenza. Da dipendenza. Questi parlano di noi, li lasciamo parlare. Non c'è più né bene né male quando mi dà dipendenza. Da dipendenza. Mi piaci, ti giuro. Dai. I baci a cianuro. Fammi vivere bene ancora un minuto prima di avere un'altra crisi di identità. Ti sogni, ne ho bruciati un'immensità. E sono diversi da quando ho paura che anche lei domani si dimentica. Si dimentica. Rifiutato, ho il cuore triturato. Non conosco l'amore simulato. Di avvelenarmi non l'avevo stipulato. A perdere tutto ci sono abituato. Mi concedo e mi piego, anche se so di avere un ego smisurato. E negli ultimi anni mi ha divorato. Mi ha divorato. Tu sei un amantide e io mi faccio decapitare. Tanto che può capitare, sono una lettera da non recapitare. A stare in gabbia ci prendi il vizio. Tu dici che è solo per l'inizio. Per l'inizio. Quando te ne accorgi stai a metà del precipizio. Questi parlano di noi, li lasciamo parlare. Non c'è più né bene né male quando mi dà dipendenza. Da dipendenza. Questi parlano di noi, li lasciamo parlare. Non c'è più né bene né male quando mi dà dipendenza. Da dipendenza. Soli senza futuro, diamoci baci a cianuro. Soli senza futuro, diamoci baci a cianuro. I baci a cianuro, i baci a cianuro, i baci a cianuro, i baci a cianuro, i baci a cianuro, baci a cianuro, baci a cianuro, baci a cianuro, baci a cianuro, baci a cianuro, baci a cianuro, baci a cianuro.